la spesa, a mangiare tranquilli fuori dal supermercato. Tu riposi in t-shirt assurde, dinosauri, le nuvole nere come bolle di bibabo. Siamo lesbiche con le gambe accavallate nei negozi di dischi e i tuoi fuso a bua, il tabacco alla pesca, un adagio d'archi in una sigaretta. Vodka, muffin, cake e lumière. E Londra, Londra è morta. In discoteca sono musica classica nel cuore delle tasche del dicembre. Montgomery bianche, sciarpe inglese per te o biscotti, liquore, libri per bambini. Londra, Londra è morta in una rissa, in fondo ai coltelli dei giovani di Sheffield, i binari, i kiwi, un sofà, l'alcol di provincia. Porto sempre dietro una fotocopia del freddo. La le la la la le la le la la. La le la la la le la le la la. La le la la la le la le la la. La le la la la le la le la la. Contiamo i cerotti sulle guance della sera e scriviamo piccolissimi pesci in francese, pubblichiamoli maleducati. I nostri baci, andiamo a dormire vestiti con le scarpe sporche di Bon e Portofino. E poi faremo tanti giri panoramici sui tetti a lanciare i sassi in viso alla domenica. Fiore sporco di fumo, un caffè alla cannella, un pomeriggio di cielo, guerra di 70 cieli diversi, e l'ambretta sui cantieri come gatti sui pianoforti. Londra, Londra è morta in discoteca, solo musica classica nel cuore delle tasche del dicembre. Montgomery bianche, sciarpe inglese per te o biscotti, cuore, libri per me.